Dietro la notizia con Gigi Donelli. Mosca taglia il gas verso l'Europa. Questo è il titolo dell'articolo che trovate oggi a pagina 9 del Sole 24 Ore, a firma di Antonella Scott. Racconta l'evoluzione di questa guerra, di questa nuova puntata della guerra del gas tra Mosca e Kiev. Dico nuova puntata perché gli ascoltatori di Radio 24 lo ricorderanno. Non siamo di fronte a un evento nuovo, ma a quella che è una lunga querel tra stati che già 3 anni fa raggiunse l'apice nelle notti immediatamente precedenti l'ultimo dell'anno e che quest'anno si è ripresentato e che assume però delle nuove forme. Io intanto saluto Antonella Scott. Buongiorno Antonella. Buongiorno. Dunque Antonella Scott, l'avete sentito, è inviata del Sole 24 Ore a Mosca. Antonella, sembra, come dire, mai scelta di tempo sembra essere stata tanto oculata. Stavo sfogliando le temperature medie di alcune capitali europee, meno 7 a Parigi, meno 8 a Berlino, meno 5 a Bucarest, meno 9 a Varsavia. Naturalmente siamo in gennaio, quindi non è nulla in sé di sorprendente, ma certo che questa puntata ennesima di questo braccio di ferro arriva in un momento in cui anche oggi, per esempio, Milano sembra in qualche modo Mosca coperta com'è di neve. Insomma, arriva all'inizio dell'anno e spaventa in qualche modo. Aiutaci a capire cosa sta succedendo, Antonella. Ma probabilmente sì, oggi sarà una giornata che coinvolgerà ancora di più l'Europa, perché come ha confermato questa mattina Naftogaz, che è la compagnia energetica ucraina, Gazprom ha tagliato il gas destinato all'Europa. Cioè, quello che era successo il 1 gennaio alle 10 del mattino puntualmente era stato una chiusura dei rubinetti di Gazprom rivolti all'Ucraina. Il salto di qualità di oggi è che, per alzare la posta, Gazprom, accusando gli ucraini di aver rubato il gas nel sistema, diciamo il sistema parallelo che esporta il gas attraverso il territorio ucraino all'Europa, accusava l'Ucraina di rubare del gas da lì. Gli ucraini rispondevano che questo gas che loro sottraevano è il cosiddetto gas tecnico, cioè il gas che a loro serviva per poter mantenere in funzione il sistema. Ad ogni modo abbiamo testimoniato nei giorni scorsi che le consegne ai paesi subito più vicini all'Ucraina erano cominciate a diminuire, però da oggi, con questo taglio invece diretto di Gazprom, che vuole mettere ancora più in evidenza di fronte all'Europa le responsabilità dell'Ucraina, sentiremo probabilmente molto di più la differenza nel pomeriggio. Secondo Naftogaz, le compagnie energetiche europee avvertiranno questo calo nel pomeriggio, anche se già abbiamo visto dalla Bulgaria, dalla Turchia e dalla Grecia si segnalano delle riduzioni significative. Insomma, i gasometri di mezza Europa in queste ore vanno in fibrillazione. Lo ricordo, l'Ucraina ha una posizione appunto geopolitica che di fatto la rende la strozzatura di un grande imbuto che da una parte si riapre verso Oriente nelle ex repubbliche sovietiche e naturalmente in Russia, e che poi si riapre a sua volta, appunto dopo la strozzatura ucraina, verso quelle che sono le nazioni balcaniche, dell'Europa centrale e persino del nord, perché di fatto il gas russo serve più di 200 milioni, in maniera diretta e indiretta naturalmente non esclusiva, di europei. Sì, basta pensare che di tutto il gas russo che l'Europa importa, l'80% passa dall'Ucraina, per capire quanto è centrale, e questo è il punto di forza su cui gli ucraini vorrebbero puntare per farsi ascoltare nei negoziati. Una battuta, diciamo, storica, perché viene inevitabile la questione, ma insomma, perché tutto questo gas passa dall'Ucraina? Probabilmente semplicemente perché una volta il problema non si poneva, perché sono condutture anche storicamente nate in altre circostanze, Antonella. Ed è la via più diretta, le vie alternative su cui adesso i russi vorrebbero puntare, e probabilmente questo è uno dei loro grandi obiettivi in questa crisi, far vedere agli europei che l'Ucraina è un paese inaffidabile, tanto che a ogni appunto inizio di anno ci troviamo in questa situazione, e quindi rilanciare le loro rotte preferite, che sono Nord Stream, un gasdotto che dovrebbe arrivare direttamente in Germania attraverso il Baltico, e South Stream, il gasdotto che è progettato insieme ad Eni e che dovrebbe arrivare invece dalla Russia a Bulgaria sotto il Mar Nero e poi al sud dell'Europa direttamente in Italia. Queste sono rotte preferite per i russi, perché appunto bypassano l'Ucraina, e però pongono tutta un'altra serie di problemi per gli europei, perché sono comunque gasdotti molto costosi, soprattutto Nord Stream dal punto di vista ambientale ha sollevato molte obiezioni da parte dei paesi scandinavi, dei baltici, e in qualche modo puntando sui due grandi alleati della Russia in Europa, la Germania a nord e l'Italia a sud, dividono l'Europa, che è appunto l'obiettivo dei russi, di potersi dividere in modo che non ci sia una politica energetica forte da parte europea. La possibilità, o meglio la prospettiva russa di moltiplicare quelle che sono le vie appunto di induzione del gas verso l'Europa occidentale, di fatto è nell'ordine delle cose. Tu ci spiegavi Nord Stream e South Stream, i tempi potranno essere lunghi, ma sicuramente nella testa del Cremlino c'è questa prospettiva di lungo termine, ma appunto i tempi non saranno comunque brevi. L'Ucraina sa in qualche modo di avere ancora per un certo numero di anni un ruolo centrale, che poi rischia di perdere in questa vicenda. Sì, infatti sia la Russia che l'Ucraina stanno conducendo questa partita camminando davvero su un filo, cercando tutte e due, tra l'altro Gazprom, bisogna sottolineare, con una campagna di immagine per cui rispetto a 3 anni fa è riuscita a non farsi non avere il ruolo di chi è della parte del torto, del cattivo, diciamolo. Ecco, del cattivo. Ma oggi basta leggere, anche c'è un commento molto bello, un editoriale su Wall Street Journal che ridimensiona molto le critiche nei confronti di Gazprom, proprio perché sono stati molto attenti a far vedere il proprio punto di vista. Il vicepresidente Medvedev è in giro per l'Europa e a rovesciare tutte le responsabilità sull'Ucraina. Ecco, il 31, scusa Antonella, addirittura c'è stato un intervento nei telegiornali della sera del presidente russo Dmitry Medvedev e del primo ministro Vladimir Putin per spiegare che in realtà la Russia stava facendo il possibile per andare incontro ai fratelli ucraini, ma che proprio, questa naturalmente è la versione che è stata comunicata all'opinione pubblica russa, erano disposti a scendere a $250 per 1000 metri cubi di gas, ma insomma che dall'altra parte si sono trovati di fronte a un muro. Questa è una frase che mi ha colpito, che è stata detta ieri da Medvedev, Alexander Medvedev, non il presidente ma appunto il vicepresidente di Gazprom. Lui ha detto, rivolgendosi agli ucraini: noi vi imploriamo di tornare al tavolo dei negoziati, che certamente è un verbo che Gazprom non usa molto spesso. C'è una notizia che sta arrivando in questi momenti, quindi sarà comunque da verificare, però che avrebbero concordato Gazprom e Naftogaz, quindi gli ucraini, di riprendere le trattative. Questo vedremo poi più tardi in giornata a che cosa porterà. Però sicuramente in queste trattative, come dicevi tu Gigi, l'Ucraina punterà molto sul suo su comunque la sua importanza come paese di transito, che certamente non potrà venire meno nei prossimi anni, e quindi cercando di strappare il prezzo più basso possibile. Ecco, sono le 8:40 minuti, ricordo l'800 24 00 24 ai nostri ascoltatori se volessero contribuire con le loro riflessioni questo tema di giornata. Antonella, parliamo un momento di quelli che sono i rapporti in generale tra Mosca e Kiev. Sono stati anni complessi, difficili, i rapporti tra il presidente appunto dell'Ucraina e il suo omologo o meglio, era il suo omologo presidente e oggi premier russo Putin, sono sempre stati difficili. Ricordiamo una Kiev avvolta nell'arancione di una rivoluzione che mise in grande crisi anche psicologica Mosca e l'opinione pubblica. I rapporti tra questi due leader non sono mai stati buoni. No, infatti non è certamente non è santa politica pensare che dietro tutta questa crisi c'è l'obiettivo preciso di Mosca di insomma sostanzialmente rovesciare Yushchenko. La posizione, i rapporti con lui si sono aggravati ulteriormente l'estate scorsa quando Yushchenko dopo aver dichiarato apertamente l'intenzione dell'Ucraina di entrare nell'Unione Europea e nella NATO, in particolare si è messo contro Mosca riguardo alla guerra in Georgia. E mentre il primo ministro ucraino Yulia Tymoshenko ha avuto una posizione molto più morbida nei confronti di Mosca, e potrebbe essere proprio questa la chiave di questa crisi, rovesciare l'obiettivo di Mosca, rovesciare Yushchenko e invece far emergere la Tymoshenko come la persona che porterà fuori da questa crisi l'Ucraina. E quindi anche questo lo potremo verificare presto, se nei prossimi giorni la Tymoshenko dovesse spuntare fuori a Mosca, riuscire a strappare un accordo non troppo svantaggioso per l'Ucraina e tornare in patria come trionfatrice, come quella che ha risolto il problema, questo potrebbe sicuramente aumentare molto le sue credenziali. Dobbiamo ricordare che tra un anno sono previste elezioni presidenziali in Ucraina, che appunto dove appunto saranno di nuovo di fronte Yushchenko e la Tymoshenko. Ecco, un paese molto interessante e anche molto spaccato intorno, sì, a Kiev a Occidente, una fortissima coesione elettorale a favore del presidente Yushchenko e dei suoi arancioni cosiddetti, a Oriente, quindi verso la Russia, invece una mappa elettorale che è tradizionalmente tinta di blu, che sono i colori dell'attuale opposizione e di quella parte del paese più vicino alla Russia, perché questa è la storia appunto di questo grande paese. Sono intanto le 8:43 minuti, alle mie spalle una nevicata sempre più intensa e assolutamente suggestiva avvolge almeno questa parte di Milano e direi la città intera. Questo mi porta un po' a ricordare che oggi che noi concludiamo il ciclo delle feste, a Mosca invece si attende la vigilia del Natale. Allora io direi, se chiedo a Carmelo Lauricella in regia se siamo pronti a sentire quelle che gli aggiornamenti sul traffico, che oggi sono particolarmente importanti, e dopo con Antonella Scotto invece ritorniamo nella festività ortodossa, nella festività della cristianità ortodossa, che appunto inizia tra poche ore a Mosca. Lo ricordo, temperatura intorno ai 10-12 gradi sotto zero nella capitale russa e un cielo che chissà se permetterà ai moscoviti di vedere quello che è il segnale appunto con cui si inizia tradizionalmente la festività del Natale. Tra un momento. Dietro la notizia. 8:46 minuti, ancora un saluto da Gigi Donnelli. Torniamo dunque con Antonella Scotti, inviata del Sole 24 Ore nella capitale russa. Ci siamo lasciati anticipando quella che è una giornata, la giornata della vigilia del Natale ortodosso. Dunque, Antonella, come si prepara appunto la Russia a questa giornata? Che cosa prevede il rituale della vigilia di Natale? Dunque, le celebrazioni, il momento più importante delle celebrazioni saranno questa sera, quando appunto, come probabilmente non riusciremo oggi a vedere, però all'apparire della prima stella termina la fase dell'Avvento. Sono 40 giorni di un po' come la nostra Quaresima per il Natale ortodosso, e anche il Natale si osserva un periodo di digiuno, e invece a sera, prima delle celebrazioni, in chiesa tutte le famiglie hanno un pranzo speciale che viene chiamato la cena santa, per onorare il Cristo bambino che viene, e che ha tradizioni, cibo magari diverso da villaggio a villaggio, però hanno degli aspetti in comune, e si compone, c'è cioè una cena che è composta da 12 portate a simboleggiare i 12 apostoli, ma la cosa più importante è quello che viene chiamato kutia, è una specie di porridge, come un piatto dove gli ingredienti sono diversi tipi di grano per simboleggiare la speranza. Poi ci sono il miele e semi di papavero per rappresentare la felicità e la pace, il successo, e si mangia tutti insieme da un unico piatto, ancora per simboleggiare l'unità. La tovaglia è bianca, è la veste di Cristo, ricoperta di paglia per ricordarne la povertà, e c'è una candela bianca al centro che simboleggia la luce del mondo, Cristo, e accanto una grande fetta di pane che ancora è il Cristo, il pane della vita. Ogni persona viene benedetta con miele e si fa con il miele il segno della croce sulla fronte, augurando serenità, poi si divide il pane intinto nel miele e poi nell'aglio a dire la dolcezza e l'amarezza della vita. Già. Al termine scusami. No, prego. Era questo elemento dell'aglio, è effettivamente molto russo, sembrava mancare un po' questa storia natalizia. Sì. Al termine della cena poi non si lavano i piatti, ma si aprono i regali e poi si va in chiesa, si torna tra le 2 e le 3. Un po' come noi, e il giorno dopo, quindi domani, il giorno di Natale, la tradizione è fare visita ai vicini, ai parenti, offrendo dolci, mangiando, bevendo, cantando. Insomma, costumi che ci sono molto familiari, al di là del rituale naturalmente ortodosso che segue un altro calendario, ma come hai detto, un po' come da noi e nelle grandi comunità. Antonella, volevo chiederti una cosa: Mosca ci ha abituato negli scorsi anni anche a un altro tipo di Natale, che era il Natale dell'opulenza, il Natale mostrato, addirittura sbattuto in faccia al mondo per segnalare questa nuova ricchezza. Ecco, questa ondata di sobrietà, direi forzosa, che viene in qualche modo evocata da molti capi di Stato, tocca Mosca e in che modo? Beh, sicuramente forse quello che vedevamo negli anni scorsi era anche una specie di reazione al fatto che questo tipo di feste fossero bandite, ricordiamo, certo, dopo il 17, anche dal punto ovviamente religioso, dopo il 92 era un ritornare allo scoperto. Sicuramente quest'anno, mentre da una parte il fatto che, perché in Russia proprio da Natale fino all'11, quindi proprio per 10 giorni, il paese si ferma, non ci sono giornali, le fabbriche sono chiuse, proprio per preparare la celebrazione del Natale. Quest'anno è stato abbastanza opportuno questo, perché la Russia sta entrando, si teme, in un periodo di recessione. Le fabbriche hanno grossi problemi a pagare gli stipendi e quindi poter mantenere la gente a casa forzatamente, però facendola apparire come le vacanze di Natale, ha in qualche modo aiutato. C'è da dire che Putin in questa crisi sta rischiando tantissimo, e probabilmente anche la stessa crisi ucraina di cui parlavamo prima è anche un modo per distrarre un po' l'attenzione. Si dà molto rilievo nei telegiornali, appunto i giornali sono fermi, però sui telegiornali si dà molto spazio alla propaganda anti-ucraina, e questo sta aiutando un pochino il governo. Ecco, una questione naturalmente di leadership, tema centrale ovunque, forse in Russia, come in alcuni altri paesi del mondo, ancora più importante. Sulla leadership di Putin possiamo dire, ne abbiamo parlato tante volte, insomma non ci siano dubbi di sostanza, l'uomo venuto dal nulla ha da tempo dimostrato quello che è il suo ruolo centrale nel paese. Nello stesso tempo però questo è anche il primo anno, neanche compiuto, in cui lui di fatto ha formalmente una posizione da vice. Lo ricordo, dopo due mandati presidenziali, Vladimir Vladimirovich Putin diventa premier, perché la Costituzione russa gli impedisce di concorrere per un terzo mandato presidenziale, e presidente diventa invece quello che di fatto è stato una sua indicazione, un suo delfino, tradizione peraltro russa, appunto Dmitry Medvedev, grande ex presidente di Gazprom. Oggi, ancora l'altra sera, vedevamo dalle televisioni internazionali, ci sono queste immagini a mio avviso anche curiose, nel senso che il presidente e il premier sono messe nelle inquadrature su una posizione di assoluta parità, e in qualche modo riecheggiano e rimandano a tutti noi la domanda: ma in Russia chi comanda veramente? Sì, questo questo esercizio assomiglia un po' a quello che si faceva in epoca sovietica, quando si studiavano le posizioni dei vari leader per capire gli equilibri del potere. È la grande domanda che ci si fa. Ci sono dei momenti in cui Medvedev sembra davvero in un ruolo subordinato, in cui le vere decisioni, la gestione della crisi, la gestione di questa crisi del gas, come abbiamo visto ieri, appunto, sceso in campo Putin, sembra proprio che sia lui comunque a mantenere il potere, che tutto faccia riferimento a Putin. C'è un episodio buffo che è stato ripreso nei giorni scorsi: erano andati a sciare insieme Medvedev e Putin a Krasnaya Poliana, che è la stazione sciistica che si vuole che sarà al centro delle Olimpiadi di Sochi invernali, e hanno preso un tè insieme. È stato Medvedev a pagare per il tè e Putin ha detto: è lui che ha in mano i soldi. In realtà è Putin che, soprattutto ora che c'è da destinare molto, molto denaro per cercare di salvare le imprese in difficoltà, è Putin che sta gestendo questo. Quello che è certo è che in Russia la storia insegna che un doppio potere non ha mai funzionato, non ha mai avuto un esito pacifico. In fondo lo abbiamo visto anche con Gorbaciov e Yeltsin, che non sono riusciti a coesistere. Lo zar deve essere uno solo e sarà molto interessante vedere se davvero Medvedev accetta di rimanere come un clone di Putin, oppure c'è chi dice che Putin lo ha sottovalutato e Medvedev non lo accetterà. Beh, certo, se questo dovesse accadere, il 2009 è il momento giusto, anche perché il giovane presidente, lo ricordiamo, ha 43 anni, appunto Medvedev, ha di fronte a sé un mandato. Pochi giorni fa è stata modificata la Costituzione della Federazione Russa, però in una visione che sembra in realtà favorire potenzialmente solo proprio Putin. Sì, nei giorni scorsi tutti scommettono sul fatto che tornerà Putin e che a questo punto avrà diversi anni davanti a sé. Sì, perché sei anni a disposizione che Medvedev comunque non avrebbe, per una questione di forma, lui è escluso da questa modifica costituzionale. Sì, sì, questa è stata la condizione che appunto lascia capire come questa mossa, questa modifica costituzionale sia voluta e vada a vantaggio di Putin. C'è un libro che è uscito in questi giorni in Italia di Boris Nemtsov, che è stato uno dei primi grandi riformatori e l'uomo che a un certo punto Yeltsin aveva indicato come suo successore. Ecco, Nemtsov sostiene che Putin ha sottovalutato Medvedev e che è Medvedev la speranza di una svolta liberalizzatrice della Russia. Il tempo lavora dalla sua parte e certamente non ha è un uomo molto diverso da Putin, è appunto la differenza di età, sono 15 anni di differenza, quindi vuol dire che Medvedev non è cresciuto nella propaganda antioccidentale, non ha un passato nel KGB come invece ha avuto Putin, è un giurista, quindi un uomo che basa la propria formazione nel rispetto della legge e che quindi può essere la speranza della Russia. Una battuta in chiusura, Antonella, parliamo ancora un momento dell'Italia. Rapporti, diciamo, tradizionalmente buoni, addirittura ottimi negli ultimi anni. Ci sono, diciamo, delle novità o delle segnalazioni che ci vuoi fare nella prospettiva di Mosca nei rapporti appunto con l'Italia? Beh, sicuramente tutto riguarda il gas, come dicevamo prima, ora che Mosca sembra sempre più decisa a rilanciare le vie alternative, l'Italia a sud e la Germania a nord dell'Europa saranno i suoi punti di forza e in particolare poi dall'Italia Mosca ha avuto quest'estate anche un grosso appoggio anche dal punto di vista politico nella vicenda georgiana, quindi sicuramente tutto questo contribuirà a farne l'alleato, uno degli alleati più importanti. E Antonella Scott, che ringrazio molto di essere stata qui con noi questa mattina, ci aggiornerà dalle pagine del Sole 24 Ore. Grazie Antonella, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Bene, siamo arrivati alla conclusione, 8:57 minuti 25 secondi, ho solo il tempo di salutarvi, di rimandarvi naturalmente all'ascolto di Viva Voce. Vedo Alessandro Milan già pronto qui in regia per arrivare in studio. Allora un saluto a tutti voi e l'appuntamento con Dietro la Notizia è domani alle 8:30.